Senti, un'altra cosa, hai accennato anche i rapporti con Mussolini, no? Anche su quelli io ci ho pensato un momento e ho fatto una comparazione, cioè a un certo momento tu, nel clima generale diciamo, di repressione fascista, vabbè, subisci la sorte di tutti gli antifascisti. Però mi sono posto questa domanda: se, essendoci, come penso, come viene fuori dalle tue parole e anche dagli scritti, un rapporto di generazione, che è questo, insomma, cioè essere cresciuti ragazzi assieme con Mussolini. Ragazzi assieme no, perché lui aveva 8 anni più di me, quando si è giovane 8 anni contano. Sì, però voglio È la dire, ti stessa sono date delle generazione, via, la cose stessa che, generazione. contano. Lui avesse mai potuto pensare, come dire, di perseguirti, no? Di perseguirti. E che quindi la persecuzione fascista fosse un fenomeno generale, ma che tu subivi, non che ti fosse fatto da Mussolini. Forse faccio un discorso confuso. I rapporti fra me e Gaetano Affè, no? Si può dire, siamo cresciuti assieme, eccetera. Domani lui va da una parte, io dall'altra, però credo che sia abbastanza difficile che a me o a lui venga in mente non lo so, non è immaginabile, a Certo. meno che io scelga una strada tale per cui vengo coinvolto in un fenomeno generale e cioè, dicevi, questo è quello che è Questo è quello che è avvenuto. avvenuto, cioè l'uno e l'altro siamo stati coinvolti da, no, da fatti, avvenimenti, movimenti che si sono scontrati nella maniera più violenta, a cominciare dal 1919 fino alla caduta del fascismo. Perché in Quindi il verità. resto credo che non abbia mai avuto né il carattere di una persecuzione individuale, né il carattere di una volontà individuale di denigrazione. Il resto è rientrato nella logica, appunto, dei movimenti che si affrontavano e uno o l'altro dei quali doveva soccombere senza possibilità di transazione o di intesa, insomma. Perché i vostri rapporti erano rapporti allora di generazione, quindi i più normali, Cioè, cioè senza problemi. avevamo in fondo, era partito da noi un movimento, tu sai che fra repubblicani e socialisti c'erano state in Romagna lotte feroci, spiegabili per lo sviluppo stesso delle due correnti, delle due tendenze, dei due movimenti. Ma noi vi introducemmo appunto un elemento nuovo che poi estendemmo anche agli anarchici. Cioè la ricerca di quello che ci univa nelle lotte immediate, nei problemi, della nostra epoca, della nostra generazione, per cercare di rivolgerli, risolverli assieme. Questo cominciò con lo sciopero, generale contro la Libia alla fine del 1910 e poi ancora nel 1911, e durò fino alla Settimana Rossa, o meglio ancora, durò fino alla guerra, perché la guerra pose problemi di tal natura.